Tempo di Sport con Carlo Genta. Una bandiera senza segni ti regalerò quando dovrai partire, e il vento forte di Levante la sventolerà che si potrà vedere. Una bandiera senza segni ti regalerò e una clessidra d'oro, quando la sabbia del deserto la trascorrerà ti potrai riposare. Valentina Vezzali dunque sarà la quarta donna della storia a portare la bandiera italiana alla sfilata delle Olimpiadi di Londra, dopo Miranda Cicognini, Helsinki 52, Sara Simeoni a Los Angeles nell'84, Giovanna Trillini, sua collega e tante volte avversaria ad Atlanta nel 96. Del resto volevamo giustamente, era nell'aria questo, volevamo dare questo onore ad una delle nostre signore dello sport, belle e vincenti. Dopo il grazie non fumo di Federica Pellegrini, piuttosto inelegante, anzi molto inelegante per i modi, per i tempi, per la situazione, si era parlato di Valentina Vezzali, di Josefa Idem, di Alessandra Sensini, che erano gli altri due nomi possibili. Poi si è andati sulla signora delle medaglie in cerca del suo quarto oro, e per la quale perfino Jacques Rogge, presidente del CIO, ha dichiarato il suo tifo. Ieri abbiamo interrogato i nostri ascoltatori con un sondaggio su Facebook, chi meglio di Valentina Vezzali. Ecco, molti hanno risposto Josefa Idem. Buongiorno Josefa. Buongiorno. Grande signora dello sport che si appresta alla sesta Olimpiade. No, sesta per l'Italia, l'ottava in tutto. Sesta per l'Italia, naturalmente l'ottava in tutto, perché ci sono le due precedenti con la maglia della Germania. Come valuti tu, Josefa, questa scelta che va a Valentina Vezzali? Sarà lei ad aprire il corteo? Ma adesso, in tempi non sospetti, ho sempre detto che se dobbiamo badare ai risultati, lei è quella che stramerita questo onore. E poi c'era qualcuno che se l'è preso con me, hanno detto: ma come puoi dire vogliamo te? Perché c'erano tante persone che mi avevano manifestato il loro parere favorevole, e allora dopo ho sempre detto: ma non con questo ho detto che non mi sentirei onorata. Naturalmente io sono molto felice per Valentina. Come dicevo, l'ho sponsorizzata in tempi non sospetti, senza per questo aver rinunciato, però ripeto, questa è una scelta che spetta al CONI, ha fatto le sue valutazioni ed ha fatto la scelta giusta. Senti Josefa, comunque resta il fatto che lo sport femminile italiano in questo momento è la faccia migliore che abbiamo da proporre al mondo, sei d'accordo? Ma in varie discipline, eh? Ma adesso direi che lo sport femminile sta andando alla grande, sta raccogliendo i frutti di una cultura, di una mentalità cambiata nel mondo al femminile, e dimostra che quando contano i numeri sono tra i migliori, e questo mi fa un grande piacere. Io sono veramente una grande promotrice della questione femminile, non solo sportiva, e quindi sono molto molto felice che stiamo mostrando questo nostro lato migliore femminile. Hai trovato in questi anni qualcosa di cambiato nel modo di gestire lo sport in Italia? Tu che arrivavi comunque da un'esperienza di altissimo livello in un paese lasciamo stare le tradizioni, ma con grandi attrezzature, con grandi mentalità sportive. Ma allora, io ho fatto un'esperienza da assessore al Comune di Ravenna, e quindi un'esperienza amministrativa. Seguo molto quella che è la gestione dello sport, e mi sono accorta che per lo sport, anche quando c'erano tempi di vacche grasse, c'erano sempre tempi di vacche magre. Lo sport ha sempre faticato a diventare un grande tema, e di conseguenza quelle tematiche o quegli ambienti che sarebbero maggiormente da supportare, ma non solo per trovare il grande risultato, ma per dare ai giovanissimi la possibilità di sperimentarsi in diverse discipline, in ambienti all'altezza, sono sempre quei temi che vengono trattati con più trascuratezza. C'è sempre qualcosa che è più importante, c'è la sanità giustamente, l'istruzione, il marciapiede. Quindi su questo non è cambiato niente. Il sacro graal dello sport nella scuola, e tu lo sai meglio di tutti gli altri, ai figli hai avuto questa esperienza da assessore. Cioè, lo sport nella scuola italiana, a differenza di tutti gli altri paesi, non riesce ad entrare in maniera seria. Ma allora io devo dire che ho incontrato tantissime maestre che si sono inventate, anche insegnanti di educazione fisica, insegnanti di motoria nelle scuole elementari, quindi da parte di loro non è mai mancato anche la buona volontà di fare qualcosa per cui non sono preparate. Non si può dire in modo diverso, però come struttura, cioè nelle scuole elementari lo sport non è gestito come dovrebbe esserlo, di conseguenza l'offerta non è delle migliori. Chiaro. Questo in un'età in cui attraverso il movimento si fanno tantissime cose, cioè si scopre innanzitutto anche altri difetti dal punto di vista proprio della dislessia, della disgrafia, eccetera, è a supporto della cura, cioè si vedono i difetti a quell'età e si può intervenire subito, quindi è una grande importanza a quell'età e purtroppo ancora non abbiamo i programmi adeguati. È così. Giuseppe, un'ultima domanda su come vanno le cose in acqua, perché non manca poi tantissimo alla partenza. No, io ho fatto la prima gara questo weekend in Polonia e sono andata lì molto fiduciosa perché in allenamento stavo facendo tempi egregi. Sì. E invece poi ho scontato l'emozione della prima gara, cioè ho pagato il dazio per l'emozione della prima gara della stagione, infatti a chi l'ho raccontato ho ricevuto la risposta: ma tu ancora? Esatto. Dico sì, io ancora. Te lo stavo per chiedere anch'io, nervosa. Naturalmente. Sei nervosa prima della prima gara? Ero molto emozionata e ho fatto una serie di errori e adesso domani parto di nuovo per una gara in Germania e cerco di esprimere questa volta quello che è il mio livello di prestazione. È stata una preparazione ottimale, devo dire. Abbiamo fatto 4 mesi in Spagna, 3 settimane lì, una a casa, con tutte le cose da organizzare per quanto riguarda la famiglia e quant'altro, certo. Però è andato tutto molto bene. Siamo fiduciosi e poi conto sul fatto di essere al top della condizione psicofisica nell'evento clou che sarebbero le Olimpiadi. Quel giorno lì. Senti, io ti saluto, ti ringrazio, ti faccio gli in bocca al lupo e mi unisco a molti ascoltatori che domandano: ma non si può farle tutte e due portabandiera? Sono molto onorata di questa considerazione, di questa stima. Però, ripeto, abbiamo veramente una degna rappresentante che se lo merita a portare la bandiera lì a Londra. Quindi non voglio sminuire il merito, sono contenta di questa stima che ricevo. Grazie Giusefa, grazie. Grazie come sempre. Grazie Giusefa idem. Credo che la verità sul niet della Pellegrini stia a metà tra questi due messaggi, 349-238-6666. Davide: la Pellegrini è arrogante, egocentrica, la simpatia e il senso di appartenenza non l'hanno sfiorata. E Tobia da Verona: la Pellegrini ha detto no solo perché il giorno dopo aveva la gara, ha fatto molto bene, la federazione che ha sbagliato. Io credo che sia stata una vicenda gestita molto male da tutti, compresa Federica Pellegrini. Francesco Milano, buonasera, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi canto proprio le ultime parole di Giusefa. Mi trovo d'accordo su tutto, tranne che sulle ultime parole, nel senso che invece non la trovo una degna rappresentante la Vezzali, purtroppo. Perché? Nel senso che rappresenta un momento storico che, come dice Grillo, che ultimamente è molto sul pezzo, è leggera controtendenza. Come paese siamo. Sì, posso permettermi? Perché? Lei si può permettere quello che vuole, anche di parafrasare Grillo, però non riesco a capire perché la Vezzali non sarebbe una... Ci arrivo. Ah, ok, va bene. Nel senso che me la ricordo a porta che era... quella che voleva abbracciare Berlusconi, nel senso che abbiamo così tante rappresentanti, non ultima Giusefa, ma le giovani pallavoliste che ci incarnerebbero in maniera molto più onorevole e dignitosa, invece lei rappresenta un tipo di mentalità italiana, secondo me ormai diversa, cioè Ma secondo me rappresenta un'atleta straordinaria che va a caccia della sua quarta medaglia d'oro in nelle ultime quattro partecipazioni olimpiche. Io la valuto Valentina Vezzali sul piano strettamente sportivo. Non mi sembra che abbia particolari scheletri negli armadi, ma al di là di qualche atteggiamento che lei citava, non me ne frega nulla se è stata ballando sotto le stelle, l'hanno fatto in moltissimi. Non credo che questo sia ostativo a rappresentare il proprio paese nel momento sportivo più importante che c'è. Io credo sia una straordinaria atleta, una donna simpatica e per bene, il resto mi importa davvero poco. Quindi credo che sia certamente una degna rappresentante a issare la bandiera italiana, a portare in mano la bandiera italiana in quel giorno. Questo è il mio pensiero, che è diverso dal suo, ma non c'è nessun problema. Andrea, provincia di Verona. Sì, pronto, buongiorno dottor Genta. Dica. Io volevo riassumere con un proverbio la finale di Champions League di sabato scorso. Prego. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Arrogante il rigore di Robben. Un grandissimo giocatore, ma a rigore decisivo l'ha sbagliato e l'ha tirato in un modo arrogante e nervoso, cosa che un Baggio, o restando nei giorni attuali un Del Piero, o un Milito, o anche un semplice Klose, ultra trentenne della Lazio, non avrebbe mai sbagliato. O poi guardando i rigori, un Lamo, un Mario Gomez che ha tirato un rigore meraviglioso, insomma, uno degli altri. Ma Robben comunque arrogante, perché voleva batterlo lui di nuovo e l'ha battuto in un modo nervoso, tutto quanto, sì. Veramente, cioè, sono rimasto senza parole, però sono contento per il Chelsea, perché Drogba, ultra trentenne, ha ancora dimostrato di essere, mi scusi la parola, un dio del calcio, veramente. Sì. È un giocatore mostruoso che sentiva più degli altri o come gli altri che ha persa la Coppa dei Campioni nello stesso modo in cui ora l'hanno vinta, sentiva più degli altri questa sorta di maledizione. Poi c'erano molte storie che si intrecciavano e molte sensazioni che si intrecciavano. Per Drogba sapeva bene che era la sua ultima partita con la maglia del Chelsea, infatti ha salutato tutti negli spogliatoi, andrà a farsi riempire di soldi in Cina come Marcello Lippi. Un dispiacere, però un dispiacere. Per chi? No, per noi, penso, per chi come me ama il calcio, vedere Drogba e questi giocatori andare ad emigrare dove il calcio è periferico, sì, alla periferia del calcio, però dobbiamo abbastanza abituarci a queste nuove geografie, perché nessuno ora nel vecchio continente, nei paesi classici, nei paesi calcisticamente classici, può competere con queste offerte, e quindi giocatori o allenatori sul finire della carriera fatalmente vengono attratte da queste proposte indecenti. Senta un po', già che è lì e volevo giocare, le dispiace vedere andare via Drogba eccetera, chi le piacerebbe invece? Oggi sono stato intrigato dal sondaggione della Gazzetta dello Sport. Chi le piacerebbe rivedere in Italia di quelli che sono fuori? È una bella domanda. Magari questo. Ma io non sono matto per niente. Poi posso fare cose un po' strane o cose divertenti, quello sì, ma matto proprio non so. Magari questo, Balotelli. No, guarda, io sono interista sfegatato dalla nascita, ma vedere Balotelli, guarda, anche vederlo in nazionale per me è un insulto al calcio, perché con tutti i soldi che prende dalla miseria, l'Inter che l'ha svezzato, tutto quanto, per me mi scusi una parola, ma non vorrei neanche dirla davanti a tutti i radiospettatori, è un insulto per me. Scusi la parola, ma piuttosto di Balotelli avrei portato un Matri più sincero, sì, più tranquillo. Sì, però Balotelli però è un giocatore che in una competizione come l'europeo ti può regalare la differenza, ti può regalare la giocata che ti fa vincere la partita. Ora, se stiamo a discuterlo come atteggiamenti, come personaggio, eccetera, eccetera, eccetera, non la finiamo più. Anche qui mi limito alla valutazione strettamente calcistica. Io uno come Balotelli in una competizione come un europeo me lo porto tutta la vita insieme a Cassano. Magari però avrebbe preferito questo allora da interista. Perché? Perché? Non so se è la pubblicità da UNICEF, non so se è il potere del signor Villar in UEFA, non so se sono molto simpatici, non so, non entiendo. Ecco, io voto per questo. A me piacerebbe rivedere Mourinho nel campionato italiano, Franco Piantaneda. Anche rivederlo con la Juve o col Milan, con la Roma. Esatto. No, no, a prescindere dalla squadra. A prescindere dalla squadra, Franco Piantaneda invece vorrebbe rivedere Capello. Francesco Venezia, grazie intanto. Francesco da Venezia. Salve, buongiorno, dottor Genta. Buongiorno. Senta, sportivamente parlando... Con i tedeschi noi ci siamo presi sempre delle belle soddisfazioni, gli abbiamo sempre dato delle batoste a partire dal calcio per finire anche negli altri sport, ma sa qual è la cosa più bella? No. È avere una Josefa che fa la sesta Olimpiade con l'Italia e porta la nostra bandiera e le abbiamo soffiato un atleta del genere. Francesco, però attenzione, non porta la nostra, porterà la nostra maglia azzurra, colori, i nostri colori certamente, nostri colori, per la sesta volta. Però guardi, è una persona, una sportiva eccellente e una persona ancora meglio. Mm. La saluto, la ringrazio, salve. E io ringrazio lei, Francesco da Venezia. Allora, chi vi piacerebbe rivedere in Italia? A molti, visto il sondaggio della Gazzetta, piacerebbe rivedere, pure adesso che è infortunato in modo serio, questo qui. Deve dimostrare di vincere la partita, ecco, questa è la cosa più importante. Dobbiamo cercare il gioco dell'Italia, perché noi abbiamo grandi giocatori. Era Pepito Rossi, che rientrerà solo tra un sacco di tempo. C'è Marco, cui va di scherzare, scrive Taiwo, ma per carità, avrei preferito nemmeno vederlo nel nostro calcio, un giocatore che dimenticheremo molto in fretta, milanisti compresi. Salvatore, Napoli. Salve. Salve. Devo parlare, a parte che voglio ringraziare, diciamo, il Napoli che ci ha dato questa gioia così. E poi si sente tanto parlare per l'anno prossimo, no? Puntare al campionato, puntare alla Champions League, no? Mm. Ma perché non puntare a vincere questa Coppa UEFA, l'Europa League? Buona idea. Volendo. Vabbè che magari è ancora più un dispendio di energie più della Champions League, perché c'è una partita in più. Vero. Ma non sarebbe neanche da sottovalutare, secondo io, me. Io sono della sua idea, cioè non sopporto l'atteggiamento delle italiane che vanno in Europa League e poi la snobbano trattandola come l'ultima coppaccia Italia ai primi turni. Mentre guardo all'estero, vedo giocatori titolari, vedo stadi pieni, vedo atmosfera da Coppa Europea vera. È una coppa estremamente importante, è chiaro che non porti i denari della Champions League e quindi viene snobbata a torto, ripeto, dalle nostre. Io ho sentito dire che l'Inter la farà per vincerla, l'ha detto Stramaccioni. Mi auguro che sia vero e mi auguro che anche per il Napoli possa essere valido un discorso di questo tipo. Lei chi vorrebbe rivedere nel nostro campionato? Beh, Balotelli non mi dispiacerebbe. No, non le dispiacerebbe. Dico la verità. Magari anche a Napoli, no, ma non so. E questo, stia a sentire, questo qui? Voglio rimanere ancora a Madrid. So che ho fatto due stagioni non bellissime, quindi devo fare qualcosa in più qui a Madrid. E questo è quello che voglio adesso. Cacà al posto di Lavezzi. Al posto di Lavezzi. Passo un po' diverso, Cacà al posto di Lavezzi. Ma Cacà, insomma, è anche un giocatore che non credo possa arrivare a Napoli per ragioni contrattuali, perché vorrebbe dire stravolgere l'impianto contrattuale che è tanto caro al presidentissimo. Tra l'altro, impianto contrattuale che rischia di scricchiolare anche sotto i colpi della conferma di Cavani. Questo sarà un punto importante, lo dicevamo ieri, dell'estate napoletana. Borsa, poi torniamo. 800 24 00 24. Vorrei anche capire più tardi, con l'ospite che arriverà, che cosa c'è di vero e che cosa c'è dietro la visita di Roberto Mancini ieri in via Turati. Non credo sia andato lì soltanto per bere qualcosa. Bene, noto che vi è piaciuto il giochetto. C'è chi vorrebbe rivedere Pastore a Torino con la maglia della Juventus, chi Zeman in una squadra di Serie A, chi Van Basten come allenatore del Milan. E che ne pensate di rivedere il grande Trapattoni, scrive Antonio da Napoli. Poi continuiamo, però un occhio alla cronaca lo teniamo sempre. Ieri sera abbiamo assistito ad un brano di storia dei canestri. Sentiamo. importante che innanzitutto il tiro alla Dinamo lo prenda e non che perda la palla sulla rimessa o cose del sì, genere. Sì, ma cercheranno un lob. Direi... E gol di rigore! E sì! E ancora il filo di fondo, un lock! E questo è un tiro incredibile, stavo Vince guardando gli arbitri. Volta. Stavo guardando gli arbitri, se la stavano dando buono. Ma che cosa è successo? Ma che cosa è successo al Palaserra di Migni? Ho cominciato a 16 anni a non dormire molto e usare il tempo fino all'ultimo secondo che si può. Osley per la rimessa, si va da Vanuzzo, tripla, entra! È entrata la tripla! La Dinamo Sassari in semifinale! È entrata e anche stavolta sono bastati 53 centesimi! Il capitano Manuel Vanuzzo, che finale Stefano, che finale! Sì amici, due tiri incredibili, non so chi è appassionato di basket, chi li ha visti, chi ne ha sentito parlare, due tiri incredibili a distanza di due giorni e Sassari per la prima volta nella storia va alla semifinale scudetto del campionato di pallacanestro con tutti i meriti del mondo, nonostante questi finali thrilling in cui c'è anche un po' di buona sorte, c'è tanta freddezza, c'è una certa dose di sfiga per chi li ha subiti, nel caso di specie la Virtus Bologna. Unica serie chiusa al momento perché ieri sera Varese ha fatto lo scherzetto alla Montepaschi Siena, trascinandola alla quarta gara. Vediamo se stasera chiuderà Milano con Venezia e, forse un po' più difficile, Cantù contro Pesaro. Voglio tornare al calcio, però oggi è la giornata delle signore. Dopo aver sentito Giuseppa Idem, non poteva che esserci Alessandra Bocci, inviata dalla Gazzetta dello Sport. Vieni, ciao, dopo Giuseppa. Buongiorno, fa l'onore dopo un'atleta così valida. Non porterai la bandiera, cara Alessandra. No. Senti, ma come valuti la scelta di Valentina Vezzali? Ma credo che fosse una scelta abbastanza scontata, no? Io per simpatia cittadina ci avevo messo Aldino Montano, però ovviamente la Vezzali ha vinto una quantità di titoli impressionante, credo che sia giusto finale per una carriera che poi non si sa mai, perché magari va avanti a tirare altri 10 anni, insomma, però credo che le credenziali le abbia tutte e le abbia migliori anche dei migliori atleti italiani, quindi è giusto che la porti lei. Sono d'accordo, sono d'accordo anche sul fatto che Mancini ieri non è andata a bere il caffè in via Turati. È abbastanza difficile, poi sinceramente non mi sembrava che ci fossero questi rapporti di amicizia. Esatto. Passo di lì a salutare gli amici, ci facciamo un camparino, sì. No? Esatto, non è così? No, chiaramente... Era un appuntamento, un saluto interessato. Io resto dell'idea che non sia niente chiuso per Ibrahimovic. Io penso che da qui alla fine dell'estate succederanno tante cose. Milan ha bisogno di rifondare, ha bisogno di una cessione, secondo me, per fare mercato, perché la proprietà ha ragione, insomma, come sappiamo questo discorso è stato fatto tante volte, vale anche per l'Inter. Però dico due cose, Alessandro, tu parli di Ibrahimovic, mentre mi informano dalla regia che a Sky Sport Preziosa ha detto Palacio è dell'Inter, mentre mi informano sempre che Marca scrive che Mourinho ha firmato fino al 2016. Però ha bisogno di una cessione importante per fare cassa. In questo momento il giocatore che vale di più economicamente è Thiago Silva e al Manchester City credo servirebbe di più un giocatore come questo piuttosto che Ibra. Questo è fuori di dubbio, assodato. Oltretutto non avrebbe nemmeno senso uno scambio Balotelli-Thiago, perché per quanto al Milan possa piacere Balotelli, e lo sappiamo da tempo, certamente un difensore per un attaccante, poi si ritroverebbero senza uno dei difensori più forti del mondo e a doverne prendere e cercare un altro, se non dello stesso valore, insomma, diciamo di un valore simile. Quindi è chiaro che uno scambio che detto così non si può fare, credo soltanto che sia la serie l'inizio di una lunga serie di incontri, di una trattativa che sul binario Manchester-Milano andrà avanti per un po'. Io ho parlato di Ibrahimovic perché credo che appunto il desiderio della proprietà, della famiglia Berlusconi, sia di non cedere Thiago Silva, Quindi a questo punto insomma restano pochi indiziati, anche perché giocatori come Boateng potrebbero piacere a qualche top club, ma potrebbero, ha giocato talmente poco quest'anno che significherebbe probabilmente accontentarsi di un prezzo molto basso, per cui non conviene a nessuno. Pato, io credo Pato che appunto, non può fare mercato, visto che dall'infermeria è difficile. No, Pato, poi abbiamo visto la reazione di Berlusconi in gennaio, poi comunque certo. Pato è un altro che come Boateng dopo una stagione del genere non sarebbe saggio mettere sul mercato, e Galliani è un vecchio lupo di mare, quindi sa bene come muoversi in queste situazioni, e quindi alla fine diciamo che tutte le piste, tutti gli indizi portano a Thiago Silva, poi vedremo che cosa succederà. Ma quella storia che è uscita la settimana scorsa di Allegri che avrebbe chiesto la cessione di Ibrahimovic, situazione insostenibile, non ce la faccio più, eccetera, eccetera, è vera oppure no? Ma io non credo che si sia espresso proprio in questi termini. Certamente diciamo che lo spogliatoio del Milan nelle ultime settimane è stato un po' turbolento, lo sono tutti gli spogliatoi di tutti i club quando il momento è complicato. Poi con 10 giocatori in scadenza di contratto e con un ricambio generazionale alle porte, è chiaro che non sarebbe stato facile per Allegri gestire la situazione. Ibrahimovic è un giocatore ingombrante, secondo me anche dal punto di vista tecnico, nel senso che lo sappiamo, è l'attaccante più forte del mondo, è condizionante fortemente, nel bene e nel male, è condizionante perché ti fa vincere gli scudetti, però a modo suo, quindi è chiaro che non è facile da gestire, per cui io credo che ci sia stata diciamo più di una situazione, che lui abbia esplicitamente chiesto di cederlo, insomma mi sembra un pochino difficile. Come condizionante è un giocatore come Pirlo, in tanti hanno detto ha ceduto Pirlo, eccetera, è un discorso corretto perché ha ceduto Pirlo alla Juventus, a una diretta concorrente, e Pirlo ha fatto vincere lo scudetto alla Juventus, però anche Pirlo è un giocatore estremamente condizionante, e alla Juventus lo sanno benissimo. Sì, Pirlo non è stato tecnicamente ceduto, nel senso che era in scadenza di contratto, quindi è lui che ha deciso dove andare. A volte io sento delle ricostruzioni sull'affare Pirlo che secondo me non sono completamente corrette. È chiaro che lui non aveva interesse, non aveva piacere di inserirsi negli schemi di Allegri, però non credo che soltanto questo sia stato il motivo del suo addio al Milan. Mi permetto di immaginare che Andrea abbia avuto altre motivazioni, quella economica, ma probabilmente non solo, lo sappiamo, vuole un contratto più lungo di quello che hanno avuto i suoi compagni di generazione, diciamo, e soprattutto magari aveva bisogno di nuovi stimoli, e anche questo è possibile. Io credo che molto spesso quando si parla di quanto è stato bravo Pirlo quest'anno non si tenga conto del fatto che lui si era abituato a una routine di 7 anni con Ancelotti, e probabilmente ha fatto un gran bene a lui stesso, non soltanto alla Juventus, il fatto di andare in un'altra squadra. No, ma infatti io queste lunghe permanenze faccio fatica a comprendere proprio per questo, ma sentivo anche Costa Curta l'altro giorno, dopo un po' vai a Milanello e timbri il cartellino, cioè perdi quegli stimoli, anche quel po' di incertezza che ti viene a mancare se cambi maglia, se cambi vita, se cambi città, ti adagi un pochino, ecco. Un'ultima cosa ti chiedo, ma è una preferenza personale visto che sto giocando con gli ascoltatori, chi ti piacerebbe rivedere in Italia? A me Mourinho. Sì, forse sì. Perché rifacevo il giochino della Gazzetta di oggi, no? Cioè, chi dice Balotelli, grandi preferenze per Giuseppe Rossi, però a me Mourinho piacerebbe rivederlo su una qualunque panchina italiana. Sì, no, sinceramente Giuseppe Rossi, credo che Mourinho, di tutti i personaggi che hanno frequentato la Serie A e se ne sono andati, sia quello che suscita maggiori discussioni, passioni, polemiche, quindi certamente per uno che fa il mio mestiere sarebbe la presenza, un ritorno più gradito. Grazie Alessandra, buon lavoro. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie ad Alessandra Bocci, sempre un piacere. Allora, ricapitoliamo, notizie che stanno uscendo. Preziosi dice che Palacio è dell'Inter, quindi affare chiuso, se lo dice Preziosi sarà anche vero. Di Natale in conferenza stampa con la Nazionale ha appena detto che dopo gli europei potrebbe anche smettere. Questa è nuova, è da approfondire. Torniamo in onda e dunque sempre sul sondaggione della Gazzetta dello Sport che ho trovato molto divertente. Chi le piacerebbe rivedere in Italia è stato chiesto agli ascoltatori. Allora il 30% addirittura Giuseppe Rossi, il 27% Balotelli, il 22% Mourinho come me, il 13% Kakà, ma c'è un 8% che non mi sarei mai aspettato. Devo crescere tanto, sempre c'è che migliorare qualcuna cosa. Io lavoro per migliorare sempre. l'8% degli intervistati sarebbe piaciuto o piacerebbe rivedere in Italia Coutinho, contenti loro. Walter da Cuneo. Buongiorno dottore, buongiorno. Grazie a lei, dica. Per essere interpellato e la conduce in un modo veramente soft. Senta, siamo un po' stupidi di parlare sempre di Juventus, il Milan, Inter. Da che parliamo? Cosa dire del Torino? La mia domanda è questa, sono del Toro, sì. Anche perché mio nonno era del Toro, mio papà era del Toro, io sono del Toro, mia figlia... Del Toro, obbligatoriamente. La mia domanda è questa, come vede il Torino in Serie A? Il Torino in Serie A lo vedo meravigliosamente, lo vedo magnificamente il Torino in Serie A, sono molto contento che sia tornato. Poi arriveremo terzi, ultimi, quartultimi oppure... Questa è una domanda da prestigiatore, cosa che io non sono, perché è difficile dirlo. Il Torino è una squadra che ha già un buon impianto, la Serie A è un'altra storia. Credo che ci sia da operare sul mercato, che si è dimostrato negli anni il punto debole del presidente Cairo, dove ha fatto più danni della grandine con i vari mercati, eppure in alcuni casi piuttosto dispendiosi. Quindi è molto difficile, sa, oggi dire quanto può valere l'anno prossimo il Torino in Serie A. Dobbiamo aspettare di capire come agirà sul mercato. Poi glielo dirò, certamente. Di sicuro sono molto contento che sia tornato il vecchio Toro, perché ci mancava e perché tornerà un derby con la Juventus che è estremamente appassionante e storicamente di grande incertezza, a prescindere dal valore assoluto del Torino. Francesco, provincia di Pavia. Ciao. Ciao. Dimmi. Saluti a tutti gli ascoltatori. Due cose. Prego. Una riguardo l'argomento di prima dell'Europa League. Se pagassero come la Champions, cioè ogni bonus, ogni passaggio di turno sarebbe tutto più facile. Forse ci metterebbero un po' di mordente in più. Invece i soldi in Europa League, se non sbaglio, li beccano tutti subito. Sì. Sì. A prescindere dai tour di qualificazione. No, i soldi no, ci sono, c'è una progressione simile a quella della Champions League, ma sono briciole rispetto a quello che beccano le squadre che fanno la Champions League. Ma avevi conti sotto mano un giorno qui in onda, se volete ve li recupero magari in una delle prossime puntate, in uno dei prossimi giorni. C'è una grande differenza, il meccanismo, se non è cambiato qualcosa, è lo stesso, quindi per partita, per passaggio del turno, eccetera, ma sono davvero briciole rispetto a ciò che permette di incassare la Champions. Certo, chiaro. Un'altra considerazione era riguardo l'ascoltatore di prima che parlava di Balotelli nazionale, sono d'accordo. Con chi? A differenza di quanto dicessi tu. Che come valore tecnico indubbiamente io sono juventino, ma questo non vuole essere l'aspetto tecnico non si discute, il ragazzo indubbiamente ha delle qualità invidiabili, umanamente parlando, eticamente parlando, insomma parliamo della nazionale, parliamo di visibilità, parliamo di, ma insomma io me lo risparmierei volentieri. Vabbè, anche qui Francesco, no, ma anche qui è questione di gusti. Io mai non vedo perché dovrei rinunciare a un giocatore che mi può far vincere delle partite agli europei. Io credo che sia l'attaccante italiano più decisivo in assoluto. Credo sia anche per caratteristiche un giocatore che in questo momento della sua carriera si presta così ad uscire dalla panchina e a cambiare la partita, al colpo risolutivo. Quindi è un giocatore che io mi porterei tutta la vita, è chiaro, deve rigare dritto, è chiaro che ha degli atteggiamenti discutibili, così come gli Cassano, eccetera, eccetera, però io poi voglio vedere l'Italia in campo agli europei. Ciò che ha fatto Balotelli, e le fidanzate, le liti e tutto questo cinema qua mi interessa molto relativamente, per non dire pochissimo. La vittoria dell'Europa, prontamente Franco Piantanida mi segnala che la vittoria dell'Europa League, cioè vincere la finale, vale quanto il passaggio dai gironi agli ottavi di Champions, cioè 3 milioni di euro. Vincere l'Europa League vale come passare dalla fase ai gironi alla prima fase eliminatoria. Da lì in poi ovviamente il tassametro continua a correre. Danilo, provincia di Latina. Salve, innanzitutto complimenti per la posizione e la sua professionalità. Grazie. È la cosa principale. Sono anche da interista, sono d'accordo con i suoi commenti su Balotelli, è un giocatore che fa la differenza, e anche se insomma ci ha spezzato un po' il cuore, in certi atteggiamenti. Sì. E riguardo al giocatore che secondo me rivedrei volentieri Italia, sicuramente Samuel Eto'o. Sì. Che credo non sia stato nominato finora, almeno non è stato, no, da qualche messaggio sì, Samuel Eto'o sì, all'Inter sì. Naturalmente, per esempio questo Eto'o insieme a Mourinho all'Inter, of course, lo scrive Marina da Milano. Sì. Samuel Eto'o dubito che tornerà da queste parti, credo che rimarrà nel suo esilio dorato, scelta di vita, mettiamola così. Però certamente è il giocatore di cui l'Inter in questa disgraziata stagione ha sentito di più la mancanza, perché sono convinto che con l'Eto'o dell'anno passato non sarebbe arrivata a vincere lo scudetto, ma sarebbe divertita di più, di sicuro. I tifosi interisti sarebbero divertiti di più. Giro d'Italia. Voci dal giro. Voci dal giro con domanda. Chi risponde correttamente via sms 349-238-6666 si becca il polsino di Ivan Basso con autografo. Allora, in che anno Pantani ha vinto la sua prima tappa al Giro d'Italia? Via. Pier Augusto Stagi, via anche a te. Ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, non c'è male. Come va oggi? Oggi stanno andando fortissimo. Prima ora hanno corso a 49.800, la fuga non andava via, hanno provato tantissimi, adesso sono riusciti, sono andati via 10 corridori con dentro Alessandro De Marchi, Luca Mazzanti al chilometro 67, adesso hanno un vantaggio di 4 minuti e mezzo. Chi non voleva mandar via la fuga erano gli uomini di Joaquin Rodriguez, ma anche gli Astana di Kreuziger, perché come tu sai oggi c'è un traguardo con Abuoni e Joaquin Rodriguez cercherà in tutte le maniere di guadagnare altri secondi preziosi nella salitella finale che condurrà su all'altopiano di Falces, e in più di guadagnare anche gli Abuoni. Logicamente invece ci sono squadre come quelle di Van Bassa, la Liquiga Scannander, ma anche la stessa Lampre di Scarponi, che hanno interesse a mandarvi alla fuga per quindi togliere di mezzo gli Abuoni, e poi quindi vedremo, cioè è una lotta serrata sui secondi, anche se da domani probabilmente ci si darà i minuti. Eh sì, è quello che stiamo aspettando in fondo, Pier Augusto Stagi, non aspettiamo altro che i prossimi giorni con le grandi montagne e quelle vere. Ci sentiamo più tardi con te, dopo GR delle, anzi, nel GR delle 18, per capire come sarà andata la tappa molto di volentieri. Oggi. Grazie a Pier Augusto Stagi. Dunque, il polsino di Ivan Basso l'ha vinto Domenico da Cassano Murge. Prima tappa vinta da Marco Pantani al Giro d'Italia, data, cioè anno 1994. Franco Piantelini in redazione, Pietro Lacorte in regia. Ciao a tutti, ci sentiamo domani.